anche i santi, lei pensi a un padre Pio che veniva tutti i giorni bastonato dal demonio, al curato d'Ars che veniva buttato giù dal letto, bastonato anche lui, il demonio non è che risparmi i santi, non è un segno di peccato quello di essere posseduto dal demonio o di essere colpiti da mali malefici, no, no, il demonio mai può attaccare le anime, solo il corpo, fa solo un male fisico, non può fare un male alle anime quando si aggrappa alle anime. Padre, lei nel libro parla anche di Benedetto XVI e dice che è molto temuto da Satana, sì, e che ha compiuto un esorcismo a due giovani indemoniati che si erano recati alla sua udienza, Giovanni e Marco. Ah, questo episodio è bello, noti ho più episodi di Giovanni Paolo II, ma anche questo è bello perché questi due signore che accompagnavano due persone possedute dal demonio sono riuscite con un trucco a farli mettere in prima fila, e quando il Papa è entrato in piazza San Pietro, era un mercoledì mattina in occasione dell'udienza generale del mercoledì, è entrato, si sono messi a urlare, poi sono crollati per terra, sbattevano la testa per terra. Noti cosa che fanno spesso gli indemoniati e mai si fanno male, però sbattono la testa dappertutto. Comunque sia, e il Papa ha sentito, ha visto, ha fatto dei segni di croce verso di loro, e loro direi che ne hanno risentito perché sono rimasti stesi a terra, ma hanno cessato di sbattere la testa per terra. Per cui ne hanno risentito. Lei stesso ha parlato di Giovanni Paolo II, di lui si sapeva che in vita ha fatto tanti esorcismi. L'esempio più bello, il mio ricordo più bello per Giovanni Paolo II riguardo agli esorcismi, è c'era una ragazza dal nord che veniva a Roma per ricevere esorcismi, e quando veniva a Roma la esorcivamo, stava a Roma una settimana dal lunedì al venerdì. Tutti i pomeriggi, al pomeriggio riceveva l'esorcismo, trovandosi qui al mercoledì mattina, non aveva niente da fare, è andata in piazza San Pietro per avere l'udienza, assistere all'udienza del Papa. Le guardie hanno visto che era strana, aveva delle, e hanno pensato che fosse una malata e l'hanno messa in prima fila. Quando il Papa è entrato in piazza San Pietro, si è messo a urlare con tutto il fiato, e allora il Papa ha detto mettetemela da parte che dopo l'udienza la voglio benedire. L'hanno portata presente dall'arco delle campane, l'hanno fatto uscire quindi dalla piazza perché sennò faceva confusione, disturbava. Poi il Papa, finita l'udienza in piazza, è andata lì, uscita all'arca delle campane, ha continuato a benedirlo e al pomeriggio è venuta da noi per ricevere il solito esorcismo. Per cui abbiamo visto che c'era stato un po' di influenza per l'esorcismo del Papa. Anche in questo caso non è che si sia liberata del tutto, ci è voluto ancora tanto tempo. E lei ha paura del demonio? No. Ho sempre sostenuto che il demonio che ha paura di noi e ha paura di chiunque vive unito a Gesù Cristo. Ecco, il mio libro l'ho terminato così. È il demonio che ha paura di me e di tutti coloro che vivono uniti a Gesù Cristo. Uniti in Gesù Cristo è questa piccola frase, è la sintesi della teologia di San Paolo. Uniti a Cristo Gesù. È tutto per oggi, Italia in controluce torna domani mattina alle 6:30.